Gesù si identifica con Yahweh oppure è Yahweh? Le parole hanno il loro valore, lo dimostra il fatto che la fede cristiana fu portata avanti per secoli, dai credenti in modo unito, fino a quando la Chiesa di Roma non solo avanzò ambizioni imperialistiche, ma introdusse la parola filioque e dal figlio al credo di Nicea e di Costantinopoli. Questa parola divise la teologia trinitaria occidentale da quella orientale, e il Micià Cirillo di Alessandria scrisse: «Non permetteremo mai ad alcuno di cambiare o di omettere una parola o una sillaba di questo credo». Proprio perché è così importante ogni parola, alla pagina 145 del libro Aggiungi alla fede la conoscenza, edito dai GBU di T.C. Hammond, edizione riveduta a cura di Rinaldo. Di Prose 1994 troviamo scritto: «La formulazione di una qualsiasi dottrina biblica dovrebbe basarsi su informazioni e termini tecnici derivanti dalla rivelazione stessa e studiati nel proprio contesto biblico. Il valore del significato di una parola è stato compreso molto bene anche dai testimoni di Geova, seguaci della eresia ariana, i quali, per dimostrare che Cristo Gesù non ha una natura divina comune a quella del Padre, hanno tradotto il primo versetto del Vangelo di Giovanni: nel principio era la parola, e la parola era con il Dio, e la parola era Dio. Mettendo l'articolo davanti alla prima citazione del termine Dio e scrivendo in seguito la seconda citazione dello stesso termine, in minuscolo, i testimoni di Geova inducono il lettore a comprendere ciò che loro vogliono. Ma questo non è l'unico errore, e lo dimostra molto bene la rivista teologica Lux Biblica nel riuscito numero 29, il semestre 2004, dal titolo La fede trinitaria. A pagina 143, alla nota 97, leggiamo: «Da notare che in questo caso la TDNM, traduzione del Nuovo Mondo, aggiunge arbitrariamente la parola anche nella frase di Gesù: "Chi ha visto me ha visto il Padre". Che questa sia un'interpolazione segnata dal fatto che la congiunzione anche è inserita fra le parentesi quadre. Ma si può constatare anche nel confronto con qualsiasi testo greco e con la loro stessa interlineare del 1967, pag. 498. Questa interpolazione del testo è mirata a creare una separazione fra Gesù e il Padre, con lo scopo di far intendere che, vedendo Gesù, si vedono le caratteristiche e le qualità morali del Padre, ma non la presenza del Padre stesso. Sebbene possa sottilmente passare inosservata la differenza di significato della frase con l'aggiunta della congiunzione, anche è enorme se si considera la ragione per cui i TDG l'hanno inserita. L'autore di questo scritto, Marco Miotto, ha voluto mettere in evidenza quanto una parola possa deviare lontano dalla verità. Dopo 44 anni di vita cristiana, ho preso coscienza di una parola, o meglio di un verbo riferito a Gesù, che catapulta in una realtà teologica in grado di generare varie dottrine non scritturali. Da sempre la Chiesa ha professato la deità di Gesù in seno alla Trinità. Il simbolo di Atanasio recita: «In questa Trinità nessuno è prima, nessuno è dopo, nessuno è maggiore o minore dell'altro. Anzi, tutte e tre le persone sono insieme coeterne e coeguali». Questo porta i cristiani di oggi a professare che Gesù è Dio. Ma vi è di più. Nel suo bellissimo libro dal titolo L'unicità di Gesù, Chris Wright, con una disamina avvincente, dimostra che Gesù è veramente unico in tutto, e per dimostrare questa sua unicità, Chris dedica varie pagine per dimostrare che Gesù è talmente unico al punto non solo di aver detto di essere Dio, ma di aver dichiarato di essere Yahweh, cioè il Dio rivelato nell'antico patto ai padri e ai profeti. Se preso sul serio, questo aspetto è veramente straordinario, oltre che unico, perché anche un pazzo può dire di essere Dio, come del resto è già successo, meno, ma nessuno, ma proprio nessuno, ha mai detto di essere Yahweh. Invece Cristo Gesù l'ha affermato molte volte, come riportato ad esempio nel capitolo 8 di Giovanni, dove egli afferma che Abramo lo ha visto, 8.56, e di essere lì io sono apparso a Mosè, 8.58. Nessun credente che ha posto fede in Cristo nega questo, come del resto fa anche Mario Miotto nel suo commento su Giovanni 1. Uno, sempre nella rivista Lux Biblica, dove leggiamo quello che i TDG rifiutano di comprendere, che uno degli scopi dell'incarnazione di Gesù è proprio quello di rendere manifesto in modo tangibile e umano quello che è al di sopra della comprensione. Tutta la sua vita e le sue parole sono infatti la dimostrazione che egli era il Geova, che si era rivelato agli ebrei nell'Antico Testamento. Pag 142-143. Stessa cosa afferma Chris Wright nel suo libro sopracitato, dove, dopo aver dedicato un paragrafo sull'unicità di Yahweh, Pag 116, un altro su Yahweh, il Dio atteso, Pag 117, uno su Yahweh e Gesù, Pag 118, un altro ancora su Gesù, e i primi testimoni, Pag 121, nel paragrafo conclusione, scrive: «Ma le nostre affermazioni secondo cui Gesù di Nazareth era Yahweh, in carne umana, che egli è esaltato come Signore, che è unico in quanto atto finale di rivelazione e di salvezza di Dio, tutte queste cose restano affermazioni di fede». Pag. 124. Dunque, ovunque i cristiani attestano esplicitamente e implicitamente che Cristo Gesù è Yahweh, al punto che Josh McDowell, nel suo stupendo libro apologetico Nuove evidenze che richiedono un verdetto, dedica uno schema dallo spiccante titolo Gesù è I-E-H-O-V-A-H, nel quale paragona 17 versetti dell'Antico Patto con il Nuovo Patto, Pag 197. Questa è la fede di sempre dei cristiani. Ma ecco che questa verità sembra sconvolgere i cristiani, sembra turbarli, sembra farli sentire a disagio, e subito correggono il tiro delle loro affermazioni sia come proposizioni sia come professioni di fede, e introducono un verbo che è diventato un termine tecnico non derivante dalla rivelazione stessa, un termine che nega di fatto la confessione appena professata, secondo la quale Cristo Gesù è già HTHWH. Prendiamo un solo esempio dalla già citata rivista teologica Lux Biblica. Marco Miotto, riferendosi a Gesù dopo aver scritto «Tutta la sua vita e le sue parole sono infatti la dimostrazione che egli era il Geova, che si era rivelato agli ebrei nell'Antico Testamento, quasi come se si sentisse in imbarazzo», ti introduce una nota di richiamo a piè pagina. Ci sono nella Bibbia innumerevoli passi in cui si identifica Gesù con lo Yahweh dell'Antico Testamento. Pag 143. Seguono subito dopo circa un centinaio di riferimenti biblici. Ma, a dire il vero, Gesù non si è mai identificato con YHWH, piuttosto ha sempre detto di essere YHWH. Prendendo in prestito alcune parole usate dalla rivista Lux Biblica per condannare l'interpolazione dei testimoni di Geova, e facendolo solo allo scopo di non voler usare parole inadatte meno anche in questo caso, possiamo dire che, sebbene possa sottilmente passare inosservata, la differenza di significato tra il verbo identificare e il verbo essere è enorme. Se fosse solo questa nota a dichiarare che Gesù si identifica con Yahahahahahah, non varrebbe la pena soffermarsi, ma devo confessare che dopo 44 anni che leggo riviste e testi di teologia, tutti, ma proprio tutti, usano la terminologia tecnica «Gesù si identifica con Yahahahah» o con il Dio dell'Antico Testamento. Credo che non occorra molto per comprendere la grande differenza che passa tra identificarsi e essere. Identificarsi significa sentirsi identico ad un'altra persona. Significa avere un rapporto di completa uguaglianza con un altro, senza per questo esserlo veramente. Come un attore, può identificarsi in Napoleone vissuto quasi due secoli fa senza per questo essere Napoleone stesso. Invece, se guardo assieme ad un amico una foto di gruppo nella quale sono presente, io posso dire di essere una delle persone nel gruppo. Non mi identifico con qualcuno ritratto nella mia foto, ma io sono una ben precisa persona riprodotta nella foto. Così, quando i teologi dicono che Gesù si identifica con YHWH, vogliono sottintendere meno secondo la semantica della parola, meno che Gesù non è YHWH, ma ha caratteristiche simili a quelle di YHWH. Ma questo contraddice clamorosamente quei testi di teologia nei quali si afferma che Gesù è già lo YHWH. Forse i teologi non credono a quello che dicono o professano. Ma da dove nasce questa confusione? Perché questo imbarazzo nell'affermare che Gesù ha detto di essere Jahach o Yahach anziché essersi limitato a identificarsi nella divinità di Israele? Se fosse una cosa da poco conto si potrebbe ignorare, ma le parole di Gesù non possono essere ignorate. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Giovanni 8.24. Sfido qualsiasi teologo e filologo a comprendere che Gesù stia identificandosi con Yahweh, piuttosto che stia attestando di essere Yahweh. Per poter essere perdonati dai peccati, Gesù non chiede di essere riconosciuto come colui che si identifica con Yahweh, piuttosto esige che si riconosca che egli sia Yahweh, il Dio dell'Antico Patto. E questo Gesù lo dice a delle persone che avevano già una fede in Dio, anche se la fede era finta e inoperosa. Prendere sul serio Gesù come Yahweh significa creare una rivoluzione nel campo della teologia. Una rivoluzione che non tutti sono disposti ad accettare perché oltre a buttare alle ortiche tanti libri, scuole bibliche e teologi devono rivedere il loro credo. Non tutti saranno d'accordo su questa mia conclusione perché in fondo credono che comunque sia, si dica che Gesù è già Gagliolò, ma non è vero. La letteratura cristiana è piena di affermazioni, come i primi cristiani applicarono a Gesù i brani biblici che si riferivano a Giacca dei Giaccaweh, l'unicità di Gesù, Pag. 123, oppure Gesù applicava a se stesso la descrizione di sé fatta da Yahweh, come infatti egli fece più tardi. Il Vangelo di Giovanni, di Colin G. Cruse, edizioni GBU 2003. Perché allora questo imbarazzo a ritenere che Yahweh sia Gesù? Perché è convinzione dei teologi che il tetragramma non sia una persona, ma semplicemente siano delle lettere finalizzate a identificare il Dio Trino? Cioè come il termine Dio non è usato per definire una persona ben precisa, perché diciamo che Gesù è Dio, il Padre è Dio e lo Spirito Santo è Dio, riferendoci alla loro comune natura divina. Così, Yahweh sarebbe semplicemente una parola per definire la Trinità. In definitiva, per i teologi, i termini Yahweh sarebbe Yahweh e Dio sono sinonimi, ovvero vocaboli equivalenti. Se fosse così, perché allora i teologi cristiani sono continuamente attenti e animati da un'inspiegabile prudenza nell'affermare che Gesù si identifica con Yahweh o Yahweh? Se non hanno paura di affermare che Gesù sia Dio, e se i termini Dio e Yahweh sono sinonimi, perché non dire allora che Gesù è Yahweh? Se si continua a dire che Gesù si identificava con Yahweh, implicitamente si sostiene che di fatto Gesù non è Dio, e questa è una delle ragioni per cui i credenti non riescono ad essere convincenti nei confronti dei testimoni di Geova. Personalmente, quando qualcuno di loro viene a trovarmi, dopo un quarto d'ora di presentazione da parte mia di Cristo quale Yahweh o Yahweh, se ne va da casa mia. O forse dietro a questa paura o prudenza dei cristiani ci è dell'altro. Alcuni ritengono che sia un estremismo sostenere di vedere sempre Gesù in Yahweh, ma è pure un estremismo sostenere che il tetragramma sia una scritta riferita alla Trinità. Perciò il vero problema non è essere estremisti oppure no, è ritenere se il tetragramma che si trova più di 6.000 volte nell'Antico Patto corrisponda solo a 4 lettere per definire la Trinità, oppure sia una persona della Trinità, e cioè Cristo. Dalla risposta che diamo a questo quesito dipende la comprensione della scrittura. Settembre 2007. Ellero.